Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Tutti noi usiamo spesso dei modi di dire, frasi fatte, aforismi, slogan famosi, e li usiamo senza pensarci troppo, perché fanno parte della nostra vita. Magari non sappiamo chi li ha scritti o chi li ha detti per la prima volta, e molti di questi slogan vengono dalla pubblicità, che, come si sa, per antonomasia deve essere efficace e sintetica, e vengono pensati dai creativi della pubblicità, i redattori pubblicitari, i copywriter. Bene, il nostro protagonista di oggi, tra le tantissime attività, si può definire il primo copywriter italiano, perché la pubblicità nasce negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma quando arriva da noi sa creare qualcosa che entra a far parte del nostro vissuto. Questo signore ha firmato oltre 4.000 caroselli, accompagnando almeno due generazioni che negli anni 60 e 70 grazie a lui scoprivano frasi come "non tutto fa brodo", "basta la parola", che era quella di un brandy che creava un'atmosfera, oppure "con questa bocca può dire ciò che vuole". Ce n'erano tante di frasi che sono entrate nel nostro immaginario collettivo. Ma il nostro protagonista non si è fermato alla pubblicità, ha scritto libri, ha scritto un numero impressionante di sceneggiature cinematografiche per attori importantissimi, per registi famosi, ha creato personaggi, sketch fantasiosi, è stato il padre di tutti gli umoristi italiani, ha contribuito a modificare, a modernizzare, a evolvere il linguaggio italiano del dopoguerra. Non ve lo dico io come si chiama questo signore, lascio che si presenti da solo come sapeva fare solo lui. Laureato in legge, scrive, ahimè, riviste goliardiche e non solo fa smorfie, ma celentaneggia anzitempo, insomma, non si vuole prendere sul serio. Per cercare di sfuggire alla tentazione umoristica, si dà al ciclismo, ma anche lì buffoneggia, è un destino. Per fargli mettere la testa a posto, lo mandano in guerra. Ma con quel carattere lì, che fa? Invece di vincerla, la perde. Questi umoristi. Infine, in un tentativo di diventare serio, si dà al podismo. È l'unica volta in cui sarà magro. Ed eccolo qua, l'umorista a tempo pieno, il condannato alla lissata forzata a vita, come appariva qualche anno fa e come appare adesso davanti a voi, perché stiamo parlando del qui presente Marcello Marchesi. Marcello Marchesi, molti se lo ricorderanno, quelli della mia generazione, con i baffi finti, gli occhiali, il cappello, l'impermeabile, l'ombrello, travestito da sagace macchietta del signore di mezz'età, quello che oppone la sua epoca, i suoi ricordi al presente e che dà vita a scene esilaranti, che crea un vero e proprio fenomeno di costume. Oggi rendiamo omaggio a lui, alle sue doti di autore per tutti i più grandi, perché lui ha scritto per Totò, per Bramieri, per Sordi, Tognazzi, Walter Chiari. Rendiamo omaggio ai suoi scritti perché le sue invenzioni veramente uniche hanno segnato un'epoca importante nella storia del cinema e della televisione che stava nascendo e di quella che allora si chiamava la réclame. E poi c'è un genere musicale che nasce forse anche con lui, la canzone comica. Le persone vicine a Marcello Marchesi sostenevano che lui era stato l'unico in grado di mettere pace tra le due città italiane più antitetiche dei suoi tempi, Roma e Milano, perché lui era nato a Milano, aveva vissuto tantissimo a Roma, aveva preso anche l'accento romano, anche se lui in realtà è profondamente milanese. Nasce il 14 aprile del 1912 in Via della Spiga, quindi nel centro pieno di Milano. È, diciamo, figlio dell'amore, perché è nato da una relazione extraconiugale della madre, cosa particolare nel 1912. La madre Enrica Volpi aveva avuto una relazione con un noto avvocato milanese, verrà riconosciuto dal padre solo da grande, però questa è una ferita aperta che lo accompagnerà per tutta la vita e che si pacifica solo quando diventa padre a sua volta e ha già più di 60 anni, altra cosa particolare soprattutto per quegli anni. Da bambino viene mandato a Roma dallo zio Guido, studia, si laurea in giurisprudenza, però comincia a coltivare il suo grande amore per la scrittura, in particolare per la poesia. Nel 1932 c'è il suo esordio letterario, che è una raccolta di versi già in romanesco, si intitola Aria de Roma. Ma in quegli anni a Roma c'è un giornale satirico che ha una tiratura impressionante, 350.000 copie. È un bisettimanale, si chiama Marco Aurelio, è stato fondato nel 1931 da Cotone e da Vito De Bellis. Sul Marco Aurelio scrivono personaggi tipo Cesare Zavattini, Age Scarpelli, Mario Bava, Mario Camerini, Ettore Scola e perfino un giovanissimo Federico Fellini, che esordisce lì come disegnatore e vignettista. Marcello Marchesi inizia a collaborare con il Marco Aurelio e diventa presto una delle firme fisse. Scrive in un trio insieme a Giovanni Mosca e Vittorio Metz. Il successo di Marco Aurelio non può non colpire un grande dell'editoria italiana, il milanese Angelo Rizzoli, e nel 1935 lui propone a Cesare Zavattini di creare e di dirigere un giornale satirico concorrente del Marco Aurelio a Milano. Si deve chiamare Il Bertoldo e Zavattini accetta e si porta a Milano Mosca, Metz e Marchesi. E per Marchesi è il ritorno nella sua città natale e anche l'inizio di una straordinaria avventura. Il Falco e il Gabbiano. Marcello Marchesi così torna a Milano. Il Bertoldo ha un successo enorme, anche perché tra i suoi collaboratori ci sono umoristi straordinari, c'è perfino lo scrittore Giovannino Guareschi, il padre di Peppone e Don Camillo. E poi riscuote simpatie da tutte le parti. Tra i lettori del Bertoldo ci sono Italo Calvino, Oreste Del Buono. Marcello Marchesi diventa famoso grazie al Bertoldo e si trasforma in quello che oggi si definirebbe un autore cross mediale. Inizia a collaborare con la radio, col cinema, scrive diverse canzoni per Vittorio De Sica. Forse anch'io sono un po' un autore cross mediale. Comunque, lui lavora per la EIAR, che diventerà la RAI, scrive diversi varietà radiofonici di successo come il Prode Anselmo, 5.000 lire per un sorriso, condotto da Corrado, ma è soprattutto tra gli autori del film Imputato Alzatevi, un film del 39 del regista Mario Mattioli con Macario, il primo film comico della nostra cinematografia. Poi arriva la seconda guerra mondiale, quella che dice l'abbiamo persa. Tutte le attività ricreative si fermano, si rallentano. Marcello Marchesi parte per il fronte libico, verrà ferito alla schiena durante la gloriosa e sfortunata battaglia di El Alamein. Nel 1944 lo ritroviamo autore della radio di Salò, che trasmette da Milano tra il giugno del 1944 e il 25 aprile del 1945, fino quindi alla caduta della Repubblica di Salò. Lui trasmette lì, mescolando varietà, musica, una parodia di Radio Londra, gli sketch di attori come Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman. Ma questa è una partecipazione che, va sottolineato, non è politica, è puramente ricreativa e creativa, perché attorno all'interno di quella tragedia ci furono delle belle menti creative anche da quelle parti. Dopo la liberazione viene accusato, viene processato, condannato per collaborazionismo, sconta alcuni mesi nel carcere di Bresso alle porte di Milano, ha dei momenti difficili nella virulenza di quei mesi che seguirono la fine del conflitto e della guerra civile. Comunque nell'immediato dopoguerra piano piano si riparte e arrivano gli anni del varietà, arriva Wanda Osiris, arriva un genere nuovo, il cinema cambia e nasce quella che verrà riconosciuta in tutto il mondo come la commedia all'italiana, con grandi sceneggiatori: Steno, Monicelli, Scola, Castellano e Pipolo. Bene, Marcello Marchesi inizia una collaborazione straordinaria destinata a durare moltissimi anni. Con chi? Col principe Antonio De Curtis, il grande Totò. Mondrano! Sei sordo? No, comandi. Vieni qua. Sì. Oh, dimmi un po', le bistecche dove stanno? È qua sotto. Riportalo dal macellaio e fatti ridare i soldi che gli ho dato. Sì. Hai capito? Digli, le bistecche non mi servono più. Va bene. Chiaro? Sì. Andiamo. E oggi che mangiamo? Come oggi che mangiamo? Ma scusami, il cavallo è morto. Sì. E allora, bistecche di cavallo. Carne sana, rossa e nutriente. Vai! Sì. Vai! Posso la roba? Oh! senti un po'. Comandi. Il cavallo è morto? Sì. Tu come cocchiere sei licenziato. Ergo, a partire da oggi, 3 lire di meno sul salario. È chiaro? Vai! Sì. Vai! E io pago! E io pago! E io pago, è diventato un vero e proprio tormentone. Ancora oggi a Striscia la Notizia c'è una rubrica che si chiude con "e io pago". Questa battuta è stata inventata e ideata da lui, da Marcello Marchesi. È una battuta che va bene per tutte le ore, per tutti i periodi storici, e sottolinea una sorta di ingiustizia sociale, ma non è il suo unico modo di dire che è passato alla storia, che è diventato parte del linguaggio comune, perché lui ha lavorato in talmente tanti settori e si è occupato di talmente tanti argomenti che è impossibile citare tutte le sue battute. Sicuramente Marcello Marchesi è stato un uomo dalla cultura e dalla curiosità spaventose. Ascoltate cosa dice di lui il regista televisivo Vito Molinari. Marchesi era soprattutto un curioso di tutto, un curioso della vita, un curioso. Non era neanche uscito un film che lui l'aveva visto, un libro l'aveva letto, un disco l'aveva sentito. Marcello Marchesi e Totò realizzano assieme una quindicina di film. È una collaborazione molto particolare, perché sappiamo Totò era un grandissimo, era un gigante, andava a braccio, era difficile rinchiuderlo nei paletti di un copione rigido. Forse solo personaggi del calibro di un Marcello Marchesi potevano riuscire a interagire, a collaborare con lui. Si dice che Marchesi e anche Vittorio Metz si mettessero al servizio di Totò, gli confezionassero un canovaccio sul quale lui improvvisava, poi gli suggerivano giochi di parole, tormentoni, e questo sistema funzionava, ha dato vita a dei veri e propri capolavori della comicità italiana, anche se in quei tempi i film venivano stroncati dalla critica perché erano tacciati di essere dozzinali, di avere una comicità di bassa lega. La cosa addolorò molto Totò, che a quei tempi era considerato poco più che un guitto, però il tempo ha dato ragione a loro, anzi direi hanno trionfato loro, e oggi questi film vengono visti ancora e sono diventati transgenerazionali perché piacciono veramente a tutti. Tra l'altro stiamo parlando di film nei quali, oltre a Totò, recitavano tutti i grandi attori, Avenichi, Nino Taranto, Carlo Da Porto, Aldo Giuffrettino Buazzelli, ancora Aroldo Thieri, Raimondo Vianello, Walter Chiari, oltre ovviamente a Peppino De Filippo. Insomma, i nomi sono tantissimi e tutti recitano le battute che Marcello Marchesi scrive per loro. E poi ci sono altri film, oltre a quelli con Totò, film che segnano un'epoca perché lanciano attori o attrici che diventano famosi e che hanno successo grazie a canzoni che sono le hit di quegli anni e che Marchesi scrive per loro. Una delle attrici che forse deve di più a Marcello Marchesi in questo senso è lei, Silvana Pampanini, Nini Pampan, la Pampanini che proviene dal concorso di Miss Italia, viene lanciata nel cinema conquistando la notorietà nazionale proprio con un film scritto da Marcello Marchesi, I pompieri di Vigiù. Siamo nel 1949. Ma è nel 1951 che Marchesi, ancora assieme all'amico Vittorio Mezza, Mario Amendola e al regista Carlo Campogalliani, scrive un soggetto che diventerà uno dei film più famosi del cinema italiano del dopoguerra, un successo clamoroso al botteghino, con un incasso record di oltre 400 milioni di lire, che all'epoca erano tanti soldi. In questa pellicola c'è Silvana Pampanini, che recita assieme a un'altra attrice destinata a una grandissima carriera, Delia Scala, e canta una canzone che Marcello Marchesi scrive assieme al maestro Giovanni Danzi, che diventa una delle canzoni più celebri dell'epoca. Il film e la canzone hanno lo stesso titolo, Bellezze in bicicletta. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando tante persone in una. Stiamo parlando di uno scrittore, di uno sceneggiatore cinematografico, di un regista, di un paroliere, di un attore teatrale televisivo, ma anche stiamo parlando di un pubblicitario, di un talent scout. Tutto questo e molto altro è Marcello Marchesi, il nostro protagonista di oggi. Un personaggio, peraltro, che negli anni 60 e 70 era famosissimo. I suoi aforismi, i suoi modi di dire, i suoi scritti straordinari sono giunti fino a noi e fanno parte delle nostre vite. Nel nostro racconto siamo arrivati a un momento cruciale della storia italiana, la metà degli anni 50, la nascita della televisione. La programmazione ufficiale della televisione inizia il 3 gennaio del 54. In quel momento Marcello Marchesi è all'apice, è un affermato sceneggiatore cinematografico, un autore radiofonico di successo. Il nuovo mezzo gli appare subito uno strumento straordinario per raggiungere il pubblico più direttamente, per entrare nelle case di tutti. Ma è soprattutto in quegli anni nasce una nuova forma di comunicazione che arriva dall'estero, arriva dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra. È una forma che in Italia è destinata ad avere un successo grandioso, perché stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno televisivo che vivrà una lunghissima stagione di gloria, 20 anni senza interruzione. Asciugate le lacrime, bambini, un po' cresciuti, e torniamo a Carosello, il mitico programma televisivo andato in onda dal 3 febbraio del 57 al 1 gennaio del 77. Tutti i giorni, tranne il giorno della morte di Papa Giovanni XXIII, il giorno della strage di Piazza Fontana e l'assassino dei due fratelli Kennedy. Per il resto Carosello è stato la colonna sonora delle serate degli italiani. Pensate che i giornali tipo Radio Corriere TV mettevano nella programmazione le pubblicità di Carosello che avrebbero fatto, e tu sapevi se quella volta vedevi, non so, Falqui piuttosto che la pubblicità di Quell'Amaro, che però aveva quegli sketch che così tanto ti piacevano. Noi siamo la generazione di A letto dopo Carosello. Tutti i bambini della mia generazione si sono sentiti dire quella frase. E di Carosello sono stati trasmessi 7.261 episodi. Poi è cambiato, è arrivata la televisione commerciale, è cambiato il mondo, si è entrati in un'altra storia. Carosello era una serie di filmati, degli sketch comici in stile teatrale, che chiudevano con un messaggio pubblicitario, ma erano dei racconti, erano dei mini film, e tutti hanno recitato a Carosello, tutti, da Dario Fo a Totò, qualsiasi grande attore. Anzi, devo dire che per certi versi Carosello era quasi un imprimatur, la legittimazione di un successo, e tutti hanno lavorato a Carosello, anche i registi più importanti, perfino Sergio Leone, Pasolini e Fellini hanno diretto dei Caroselli. E Marcello Marchesi, con la sua verve incredibile, con le sue battute, con i suoi aforismi, con l'allenamento fatto per anni con Totò, diventa l'autore ideale di questo nuovo modo di fare la televisione e di lanciare messaggi, seppur pubblicitari, tanto che arriverà a realizzare un numero impressionante di caroselli. Si parla di circa 4.000. Soprattutto contribuisce a una sorta di rinnovamento del linguaggio, con la creazione di veri e propri modi di dire che diventano un linguaggio comune, come la famosissima pubblicità Tino Scotti, basta la parola. Buonasera, buongiorno, eccomi qua. Signore e signori, ragazzi e giovanotti, io sono il professor Tino Scotti e non dirigo un'orchestra, no, ma dirigo la vostra attenzione su parole poco usate, rare e ricercate. Prendiamo ad esempio la parola torrido. Che cosa vuol dire torrido? Credete non riusciremo a sapere che cosa vuol dire la parola torrido? Professore, c'è un negro che le vuol parlare. Un negro? Proprio oggi che vado in bianco. Va bene, fallo passare. Mi scusi, signor Scotti, se mi sono permesso di intervenire. Dica, dica. Io, povero negro, ma io sapere cosa volere dire torrido. Bravo, Bongo, bravo. Torrido volere dire caldo, caldissimo. Infatti, si dice del clima delle nostre parti che è un clima torrido. Molto bene. Oh, finalmente l'abbiamo saputo che cosa vuole dire torrido. Cioè, torrido. Ah, ma ce n'è voluto, eh? Tutto questo però può capitarci quando sentiamo una parola poco usata. Ma quando sentiamo Falqui, basta la parola. E sentite, diciamo che non erano ancora gli anni del politically correct. Oppure c'era quella di un noto dado da brodo, per la quale Marcello Marchesi conia la frase tutto fa brodo, che diventa una canzone interpretata da un giovane Gino Bramieri. Come dicevamo prima, tutti interpretano i caroselli. Ascoltate per esempio questo con Gino Cervi e Fernandel, cioè Peppone e Don Camillo, dove Marchesi si inventa uno degli slogan di maggior successo di sempre nella storia della pubblicità. Vecchia Romagna, etichetta nera, il brandy che crea un'atmosfera. Fernandel, Gino, ma come va? Bene, bene, ma che piacere vederti. Come stai? Va benone, fatti vedere. Vecchio Peppone. Allora, quando di nuovo insieme? Beh, speriamo presto. Bei tempi, eh? Ma cosa ci fai qua? No, cosa ci fai tu, scusa? Ma carosello. No, guarda che ti sei sbagliato, questo è il carosello mio. No, dunque... no, scusa, sei tu che ti sei sbagliato. Senti, sono anni che sto di casa in questo carosello, saprò bene, no? E allora mi devi far posto. Ah, ho capito, la solita coproduzione italo-francese. Bonjour Fernand, sono tanto felice di averti rivisto. Te ne vai? No, ti accompagno. Oh, non ti disturbare. No, anzi, è un vero piacere. No, per il me. Piacere è tutto mio. No, è mio. Ti dico no, perché è mio. Ti no, dico è mio. Che... E per esempio c'è la bellissima Virna Lisi che interpreta un'altra scena celeberrima, la scenetta del dentifricio Clorodont. Lei gradisce gli invitati che per tenere sulla serata raccontano magari delle barzellette un po', diciamo, piccanti? Ma di solito mi annoiano molto. Davvero? Sì, perché raccontano barzellette che io so già. Ho detto qualcosa che non va? Con quella bocca vuol dire ciò che vuoi. Clorodont? Sì, Clorodont, l'anticaria al fluoro. Con quella bocca può dire ciò che vuole. E naturalmente per la televisione Marchesi non si limita a scrivere i caroselli, anche se ne realizza tantissimi. È l'autore di diversi programmi di grande successo come La prova del 9, L'amico del giaguaro, Canzonissima, per la quale scrive anche la sigla dell'edizione del 72, Taratapunzie, cantata da Loretta Goggi. Tira su Taratapunzio, se ne fa Taratapunzia. Ma c'è un momento nella carriera di Marcello Marchesi in cui qualcosa cambia, uno spartiacque. Siamo nel 1963, fino a quel momento lui è sempre rimasto dietro alle quinte, non si è mai mostrato in pubblico. Nel 63 si inventa un programma che scrive assieme a Camilla Cederna, I signori di mezz'età, baffi finti, occhiali, cappello impermeabile, ombrello. Per la prima volta Marcello Marchesi, anche se mascherato, si mette davanti alle telecamere, diventa famoso come immagine, come macchietta, interpretando la sagace figura di un signore di mezz'età che oppone la sua epoca, i suoi ricordi al presente, crea un vero e proprio fenomeno di costume, perché questo signore di mezz'età ne dice di tutti i colori, spara raffica, battute una dopo l'altra, quelle che poi Marcello Marchesi riporterà nel suo libro autobiografico Il Malloppo, pubblicato nel 71, e alcune di queste battute sono famosissime, ad esempio anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, oppure procediamo con disordine, o a 40 anni un uomo fa il punto, a 50 anni la virgola, sono frasi che continuiamo a dire e senza sapere che le ha inventate lui. Henry Ford aveva detto: la pubblicità è l'anima del commercio. Lui ripeterà e la cambierà: la pubblicità è il commercio dell'anima. E poi sembra prenderci gusto Marcello Marchesi a stare dall'altra parte della telecamera, così dà vita a un altro tormentone insieme alla sua compagna, la soubrette Gisella Pagano. È una serie di sketch che hanno un grandissimo successo, gli vengono richiesti sempre ogni volta che sono ospiti in qualche programma. Il tormentone è Grazie Zio. Grazie Zio, grazie Zio, fratellino di babbo. È tornata, è andata via da un anno, è ritornata. Stavo così bene a leggere il mio... Grazie Zio, la eccomi qua. Ma perché non torni dove eri? Stavo così bene, mi leggevo così comodamente il giornale. C'è qualche cosa di cambiato in te, zio. La cravatta? Ma no, è un anno che non ti vedo, c'è qualcosa di cambiato in te. Cosa? Non mi ti sei un po' ingrassato. Ah, sì, un po', vero? Mm-hmm. Beh, insomma, è colpa del successo. Ti ha dato la testa, eh? No, il successo mi ha dato la pancia. Beh, adesso però lascia stare che voglio leggere. No, no, zio, senti, tu che leggi sempre tutti i giornali e sei sempre tutto di tutto, posso farti una domanda? Una sola, eh? Zio, che ne dici dell'uso della pillola? Ma è una domanda che una bambina fa a uno zio grasso dopo un anno che non lo vede? Ma io non ti rispondo affatto. Rispondimi, zio, ti prego. Non sei grasso, non sei grasso. Zio, sei magro, sei magro. Che ne dici dell'uso della pillola? Io dico che nulla si crea e culla si distrugge con l'uso della pillola. Grazie, zio. E nel frattempo noi non abbiamo ancora parlato della vita privata di Marcello Marchesi. Lui si sposa nel 49 con Olga Barberis, nel 70 si lasciano e poi lui si mette appunto con Gisella Pagano. Poi nel 71 lei lo lascia, lui non resiste nemmeno in questo caso perché il gusto per la battuta supera il dispiacere di questo abbandono. Afferma che Gisella lo ha lasciato in cerca di miglior fortuna, visto che è diventata la compagna di Loris Fortuna, il famoso deputato padre del divorzio. Alcuni anni dopo lui si innamora della sua governante sarda Enrica Sisti, la sposa nel 76 e a 64 anni, anche qui un po' in controtendenza soprattutto per quegli anni, a 64 anni ha il suo unico figlio Massimo. Ascoltate come lo presenta lui stesso durante una trasmissione televisiva. Quindi ho progetti di prossimi libri, ma tra questi progetti quello che veramente mi interessa, il progetto più importante, ora ve lo farò vedere. Sono riuscito finalmente a realizzarlo e posso fin da adesso farvelo vedere in linea generale. Attenzione, questo è il Massimo, signori miei. Ecco il mio massimo progetto, mio figlio Massimo. Ho per lui delle idee grandiose, però vi assicuro fin da adesso non farà l'umorista. Suo padre ha passato già abbastanza guai, capito Massimo? Guai a te se scrivi cose da ridere, guai, ti diseredo. Forse proprio per stare vicino al figlio, Marcello Marchesi dirà dalle sue collaborazioni televisive, si rivolge nuovamente alla grande passione che è la scrittura, che lo ha sempre accompagnato. Tra l'altro c'è un libro molto bello di Marcello Marchesi che si chiama Scherzi a parte, che vi consiglio. È una serie di scherzi e quelli che hanno fatto Amici miei hanno attinto a piene mani da questo libro. Ve lo segnalo, se vi capita leggetelo. E poi è un appassionato di fumetti, è il primo traduttore di Asterix, è lui che ha inventato il cambio SPQR, sono porci questi romani, per esempio. È un'altra battuta che noi facciamo più volte, che è sua. Poi arriva il giorno della resa dei conti, 19 luglio del 78, in vacanza in Sardegna, deve far ridere il figlio Massimo che ha 2 anni, fa una capriola in acque troppo basse, batte la testa violentemente contro uno scoglio e muore sul colpo. Lui aveva scherzato sulla sua morte, aveva detto vorrei morire ucciso dagli agi, vorrei che di me si dicesse come è morto, gli è scoppiato il portafogli, e in chiusura di un suo libro aveva scritto l'importante è che la morte ci trovi vivi. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno. Magari non ci ricordiamo più chi ha scritto una cosa, ma continuiamo a usare una frase, e questo è una delle caratteristiche principali di Marcello Marchesi. E ognuno di noi nella sua vita può darlo quel colpo d'ala e può anche riuscire a fare sorridere tanta gente come ha fatto lui. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure scrivete al nostro sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.